Ad alta voce, Maria Paiato legge Il comunista di Guido Morselli. Settima puntata. I ferrovieri italiani conoscono bene la provvida, lo spaccio che si trova in tutte le stazioni importanti e dove vanno o mandano le loro donne a fare la spesa. In quanto all'ex ferroviere Ferranini, c'erano motivi perché lui ne conservasse un ricordo speciale. Mentre aspettavano il treno delle 8:34 per Roma, indicò a Nuccia il locale. «Ci ho passato i 6 mesi più luridi della mia vita». A Reggio, luoghi e cose che gli richiamassero in qualche maniera la brutta avventura americana ne restavano davvero parecchi, troppi. Appena arrivato da Camden, lavoravo là come gestore. Uno stanzone che non ci avevano che poche cassette di farina di piselli, latte condensato e scatole di maccherello. Made in USA. Dalla Pennsylvania alla stazione FFSS di Reggio, così, di colpo. Camminavano su e giù sotto la tettoia invasa dalla nebbia che li isolava. Le parlava di quel ritorno. Tutto in quei primi mesi gli era estraneo. Vada bene se non è una porcheria. Estraneo colpevolmente, come fosse un delitto per la gente parlare italiano, abitare in case fatte all'italiana. E ce ne volle del tempo per ripulirlo, farlo sentire come prima. A Parma era fermo un battaglione del 27th Rifles, americani della costa occidentale, la metà cinesi. Non andava più a Parma per non trovarsi a sentirli parlare, a sentire quell'odore di tabacco Virginia. Se la gente gli chiedeva «Dove sei stato tutti questi anni?», non rispondeva, cambiava discorso. «Ti piace l'autocritica?», disse Nuccia. «Sei un comunista di vocazione». Potresti ammettere semplicemente che eri innamorato. Vennero questi della ferrovia, la cellula della ferrovia, a chiedermi di entrare nel gennaio del 46. Loro, mi credi, a braccia aperte, che erano stati qui a patir la fame, a farsi ammazzare alle cantonate, mentre io me la godevo. E di questo, bada, mi vergognavo e quasi avevo pudore di farmi vedere a prendere la tessera. Ma del resto, no. Dell'americanite cretina non mi vergognavo, capisci? Parlava forte. Qualcuno sotto la pensilina si voltò. Attento, Nuccia sorrise. A Reggio Emilia sei un'autorità. Però era tenace la sua parte. Andò a pescare l'esempio di Carlo Marx. Tua moglie non se lo meritava, ma se uno è innamorato non c'è tanto da vergognarsi. Marx era innamorato della sua Jenny. Una volta non si fece vedere a un congresso nel Belgio perché la Jenny lo aveva pregato di non lasciarla. Ma che c'entra Marx e i santi? Nel caso mio agiva all'automistificazione, mi spiego? Io lo sapevo bene che cosa stava dietro a mia moglie all'America. Fingevo di non saperlo. Uno che la pensa come me è continuamente minacciato dalla tentazione finché vive in un mondo che non è socialista. Deve lottare. La porcheria è che io quel mondo ce l'avevo dentro, lo difendevo, lo rimpiangevo. A confermare che Ferranini era un'autorità, sopraggiunse, sbucato proprio dal locale della provvida, un uomo calvo, curvo in una spolverina grigia, la faccia che raggiava speranza. T'ho riconosciuto dalla voce! Tu non mi puoi conoscere, eppure sono, pensa bene, il tuo successore alla provvida. Mi chiamo Zamboni e scusa se approfitto. Ho un favore da chiederti per mio figlio. Walter, il treno è in arrivo, avvertì Nuccia. Prenderemo quell'altro. Di su, Zamboni. Due parole. Mio figlio era deviatore qui in ferrovia. Adesso è a casa per una psicastenia da fatica. E gli riconoscono la malattia, non la causa di servizio. Zamboni Ivan, Ti faccio un appunto su un pezzo di carta? Ma no. Ne parlo al capostazione subito. Sarebbe qualcosa. E senti, Ferranini, mio figlio è malconciato tanto. Tu che sei socialista, dite che gli sfruttatori dei lavoratori finiranno. Ma quando saremo liberati dal lavoro? Il treno era arrivato e stava già ripartendo. Ferranini fece entrare Nuccia al caffè e andò in cerca del capostazione. Era fuori, c'era un vice capo, un giovanotto di San Donato, frazione di Vimondino. «Ti ricordi di Don Marx?» «E come? Io sono figlio di suo fratello!» Il vecchio, e morto da un pezzo, prete di Vimondino, Massimo Panciroli, si faceva chiamare Don Max e si lasciava chiamare Don Marx da qualcuno dei parrocchiani. Pare che avesse detto, dal pulpito, che questa bestia nera, Carlo Marx, non è poi il diavolo e anzi non è molto lontano da Gesù Cristo, visto che tutti e due avevano predicato contro Mammona e l'adorazione della materia. Dopo quel riferimento paesano, il giovane Panciroli si presentò in termini di partito, orgoglioso della sua speciale posizione. «Dirigo il sindacato ferrovieri, qui di Reggio, affiliato alla CGL. Ufficialmente, in pratica ho altri incarichi. Tu conoscerai il piano Keller. Ne conosco l'esistenza». Keller era un collaboratore di Lenin che dopo la caduta del governo provvisorio si rese benemerito della rivoluzione organizzando le ferrovie russe. Con nome di Keller, quelli che ne sono informati indicano un piano disposto dal partito per la condotta delle ferrovie dell'Italia centrale in caso di emergenza. Ferranini pensava al grosso ministero di Via delle Botteghe Oscure. Il piano Keller diventato una pratica fra migliaia di pratiche, chiuso e probabilmente dimenticato in una cassaforte, sotto un dito di polvere. «Speriamo», disse, «che l'ora X non venga troppo tardi». «No, l'organizzazione è discreta», quello seguitava. «Invece lascia molto a desiderare l'elemento uomo, in un certo senso, vedi, perché di iniziativa ce n'è, e anche troppa. Manca la disciplina. E vedi, tu che sei fuori dell'ambiente ferroviario, mi piacerebbe che la prima volta che ritornerai a Reggio te ne occupassi, come arbitro, voglio dire, di una questione che esiste fra me e il mio sottocapogruppo, il mio immediato dipendente nell'organico del piano. Come grado in ferrovia è appena uno scambista, ma mi sta rovinando il lavoro che ho fatto in 2 anni di fatica, con la sua prepotenza. Mi aizza contro i nostri uomini. Vorrebbe mettersi al mio posto, non vuole dipendere da me. E non è giusto, io la carica che ho me la sono meritata, ho diritto di tenerla». «Cristo, ma sono tutti così», sfuggì a Ferranini. «Come dici, compagno? Niente. E chi è questo sottocapogruppo? Non è un certo Zamboni Ivan?» «Sì, Zamboni Ivan! Adesso si è dato ammalato. Oltretutto è un lavativo, tu lo conosci?» «Me ne hanno parlato». «Vedi dunque, fa parlare di sé, mentre anche i nomi degli individui, tutto dovrebbe essere segretissimo, tu capisci?» Sì, capisco», fece Ferranini alzandosi. «E non vedo il momento di andarmene. A che ora c'è il treno per Roma?» «Alle 9:45, rispose Panciroli, stupito. «Ma dimmi, compagno, tu sei venuto qui e avevi bisogno?» «Appunto, di sapere che ora c'è il primo treno per Roma. Arrivederci». Partirono finalmente. E Ferranini se ne rimase zitto finché il treno, aprendosi la strada nella nebbia, raggiunse e superò la grande galleria dell'Appennino. Come riuscirono al sole dell'altro versante, Ferranini si rasserenò anche lui e abbassò il vetro per far entrare l'aria nuova e pulita. All'arrivo, scendendo dal treno, Nuccia gli fece notare che aveva il tempo di passare alle Botteghe Oscure, in direzione. Lui non ci andava volentieri. Quel portone, quei corridoi e sale erano una materializzazione inadeguata e insieme presuntuosa. Lo deludevano, non senza metterlo in soggezione. Pensava che il comunismo italiano diventava troppo Roma là dentro. Semmai, quello che poteva attirarcelo era la speranza di incontrare, per caso, il compagno Maccagni. E la mattina aveva letto nell'unità che Maccagni non si trovava in sede. «È tardi», rispose. «Qui la vita si sveglia a quest'ora, te ne sarai accorto». E lo spinse in un tassì. «Auguri, Walter!» «Auguri che cosa? Vado a prendere ordini, ecco tutto». E ce ne fossero stati ordini. Nessuno ne aveva. Nessuno notò la sua presenza, nemmeno lo riconobbe. E c'era dunque anche la suscettibilità offesa. «Dove sono un ignoto, sono un intruso». Entrò in tre o quattro degli illuminatissimi uffici, senza che una testa si alzasse. Percorse i corridoi, incrociando indaffarati subalterni. La direzione era riunita sotto la presidenza del vice segretario Mauro. Al solito l'ambiente lo respingeva e lui tornava a dirsi «Niente di strano, il tipico rapporto con la base. Qua dentro io sono soltanto la base». Unica faccia amica a pararglisi innanzi, quella liscia e austera del dottor D'Aiuto, un funzionario, addetto sino a qualche giorno prima alla Federazione di Roma, uno della base, anche lui. «Non mi risulta», rispose D'Aiuto, «che ti abbiano cercato. A ogni modo, se avvertirti è stato Amoruso, sentiamo da lui». «Giusto, bastava telefonare a Amoruso». Chiamarono il suo albergo, chiamarono la camera. Di Amoruso nessuna traccia. «È un napoletanaccio sempre a spasso. Sarà magari al caffè Rosati», concluse Ferranini. Voltò le spalle al D'Aiuto e si avviò per andarsene. Nell'anticamera si imbatté in un usciere. Ebbe la cattiva idea di fermarlo. «Di su, è vero che il compagno Maccagni è all'estero?» Quello alzò l'angolo della bocca, fissò con severità la punta delle scarpe di Ferranini. «Mi spiace, non sono autorizzato a dirlo». «Oh!» fece lui. «A son mengano spiave! Son Ferranini di Reggio!» Più tardi, ricordando con rammarico l'incidente, due fatti non riusciva a spiegarsi. La battuta nel suo dialetto, che non usava, e come mai al primo mettergli le mani addosso dalla giacca dell'individuo fosse caduto un bottone. Entrava l'onorevole Boatta. Vide il collega che scuoteva l'uomo afferratolo con le due mani al risvolto. L'agguantò per un braccio, se lo tirò dietro nell'ascensore. Aveva capito subito. E siccome gli voleva bene a Ferranini, cercò la nota appropriata. «Ma per forza, qua non ci vieni mai. È logico che non ti conoscono. Fatti vedere più spesso. Cosa volevi sapere dall'usciere? Dov'è Maccagni? Era a Praga. E in questo momento sai dov'è e che cosa sta facendo? È a Mondragone, nel villino di sua nipote, quella sposata. Probabilmente sta giocando al teatrino». «Al teatrino?» «Sì, seduto sul tappeto con i figlioli della nipote. Gli vuole un bene dell'anima. Il marito della nipote è un cattolico praticante e i bambini si preparano per la comunione. A istruirli viene per casa il parroco e col parroco Maccagni ha, dicono, delle cordiali conversazioni». «Devo esserti sincero, Boatta. A me queste notiziette non mi vanno. Per me Maccagni non è un uomo privato. Ti direi che non glielo permetto di essere un uomo privato. Non so se mi capisci». Liberatosi da Boatta, costeggiava Palazzo Bolognetti verso Piazza del Gesù quando alle sue spalle si fermò un tassì e ne venne fuori Nuccia. «Ho già fatto. Sono stata in libreria. Ora sto con te. E tu racconta». Ascoltò, disapprovò, poi decise che bisognava andare alla camera. «Non c'è seduta domani. Ci vai lo stesso, ci puoi trovare Amoruso». Ci andò la mattina e non trovò nessuno dei colleghi. In tutto non vide più di una decina di deputati. Davanti allo sportello, nell'ufficio, era china una schiena grigia, poderosa, e la rotonda voce diceva all'impiegato: «Sono sotto fascia. Stampe sotto fascia». Di politici romagnoli incuranti di sottrarsi alla incompatibilità regionale con lo sciò, Ferranini ne ricordava due, e uno era quello che inventò il fascismo, ma non ne seppe mai pronunciare il nome passabilmente. L'altro era appunto il parlamentare illustre che stava spedendo il plico. Questi ricambiò il suo saluto Poi, notando la copia delle Isvestia che gli spuntava dalla tasca, sono indiscreto se le chiedo per un attimo il suo giornale. Il numero, vecchio di una settimana, portava un articolo sulla prevenzione, molto apparato, poca sostanza, degli infortuni sul lavoro nei paesi dell'Europa capitalistica. Mentre l'altro dava una scorsa al giornale, Ferranini pensò che non aveva buttato via la mattina. Erano mesi che aspettava l'occasione di presentarsi. «Ferranini?» gli rispose Nenni, con una cordialità che lo fece diventar rosso di gratitudine. «Ma io ti conosco, tu sei Emiliano, mi pare, del PC», e lo invitò a sedere vicino a lui. «Ci conoscemmo, come dire, 18 anni fa», aggiunse Ferranini. «Dove? In Spagna?» Si erano veduti invece a Parigi, in un vecchio ristorante della Rue des Petites Écuries al Boulevard Poissonnier. Benché non gli restasse memoria dell'episodio, era logico, Nenni ci si interessò. «E adesso che cosa fai, Ferranini? Qual è la tua specialità, visto che dobbiamo essere tutti degli specialisti, dicono?» Dopo la spiegazione di Ferranini, osservò: «Le destre vi accusano di affarismo proprio perché le vostre cooperative sono efficienti. Intendo anche dal lato economico». Ferranini sorrise. «Quando c'ero io, sino a meno di un anno fa, le destre ci accusavano di mettere prima la politica del PC che gli interessi dei nostri soci. Ora invece sento dire che ci considerano affaristi e scimmie del capitalismo. Buon segno. Io per me sono contentissimo». «E come rispondete all'accusa?» «Tu sai come gli avversari giudicano le cose in Russia, le cose dell'economia. Se vanno male, il comunismo ne ha colpa. Se vanno bene, il comunismo, secondo loro, è incoerente perché imita i metodi capitalistici. E il merito, semmai, è di questi metodi. Lo stesso per le cooperative emiliane. Ora che vedono che le cooperative sono prospere, i borghesi gridano all'affarismo. Ma io traduco produttivismo. E ai compagni di Reggio Consiglio, curate la produttività. Quello che va evitato non è il produttivismo, è il particolarismo, ossia l'interesse non come fatto solidale dell'organismo collettivo, ma come profitto e vanità del singolo individuo. Il nemico numero uno, anche nella iniziativa cooperativistica, come in tutte le espressioni del socialismo, è questo, il particolarismo, il personalismo». «D'accordo, Ferranini, predico anch'io la stessa cosa». Si alzò. Lui non si rese conto che lo stava accaparrando e gli tenne dietro infervorato. «Però tu capisci, compagno, che in pratica discriminare non è facile. Lo stesso comportamento è buono se ha per scopo l'incremento dell'organismo collettivo. È dannoso se parte dal presupposto io, individuo, devo far quattrini, io devo distinguermi, arricchirmi, sorpassare gli altri». Distinguere non è facile, è questione di stati d'animo, intenzioni, ti pare, compagno? Dici bene, Ferranini, imponderabili che diventano ponderabilissimi a lungo andare nei loro difetti. E ci vediamo, vero? Ne riparliamo. Un minuto dopo era al telefono. Bisognava che annunciasse subito, che raccontasse. «Dove sei?» rispose Nuccia. «Ancora alla camera, tutto bene?» «Sì, sì, sto bene, sto meglio. Mi pare d'essere un altro». E che stesse meglio lo capì subito l'amico amoroso, squadratolo con un'occhiata riassuntiva del medico. Si erano scontrati sul portone mentre Ferranini lasciava Montecitorio. «A quest'ora arrivi, ma c'è mezzogiorno!» lo accolse lui. «Che dovrei stare qui alle 9. Ho cose più serie da fare». Lui ebbe la spiegazione che cercava. L'onorevole Amoruso era il medico personale di Filippo Mauro, vice segretario del partito, e lo visitava nel suo ufficio stesso, alle Botteghe Oscure. L'ultima volta Mauro gli aveva detto: «Ci sarà bisogno di Ferranini uno di questi giorni. Avvertilo che rimanga a Roma». In Piazza del Popolo l'aspettava l'appia inzaccherata di Amoruso e ci montarono dopo una capatina da rosati. Come furono alla trattoria, il portone accanto era parato di nero per un mortorio. E a lutto era l'ingresso al laboratorio dei tipografi, in fondo al cortile. «Che succede?» Ferranini tirò il campanello e venne fuori il garzone. «Hanno portato via Gennaro ora. Abitava qua sopra, è morto ieri mattina in tipografia». «Oh, crepio, ma cosa? Gennaro, il capo di quegli artigiani, l'oriundo americano, era stato fulminato da una sincope. Si era piegato sul banco, senza fare una parola. «Il dottore», terminò il ragazzo, «dice che ha faticato troppo». «Hai sentito?» disse Ferranini. «E non aveva 30 anni». Si ricordò del discorso di Zamboni alla stazione di Reggio. «Quando aboliremo il lavoro», egli passò la voglia di mangiare. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.